Gentili ascoltatrici e ascoltatori, leggiamo nelle scritture che la nostra fatica impegnata nel campo di Dio non è vana. Perciò prego perché il vostro impegno nell'ascolto della parola di Dio sia retribuito abbondantemente. Chi ci ascolta regolarmente sa che stiamo trattando uno degli argomenti più importanti della fede cristiana, e cioè la divinità di Cristo e la sua presenza al tempo dei patriarchi e dei profeti. Proprio per avvalorare questa verità, prenderemo in esame in due trasmissioni alcune testimonianze della presenza di Cristo nell'Antico Testamento. Prima di entrare in merito al tema, facciamo un breve riepilogo di ciò che abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo preso atto che la Scrittura attribuisse alla divinità di Israele dei cristiani tre nomi: Adonai, Elohim e Yahweh. Abbiamo pure constatato che questi tre nomi non sono sinonimi per indicare la stessa personalità divina. Perciò, mentre il nome Elohim e il termine Adonai sono nomi generici o comuni di persona, il tetagramma che noi leggiamo Yahweh è il vero nome proprio della divinità di Israele e dei cristiani. Abbiamo inoltre osservato che Yahweh è il nome che il Creatore si è dato e che ha rivelato per la prima volta a Mosè. Perciò i santi dell'Antico Testamento non avevano una fede vaga in un Elohim, cioè in un Dio vago, ma nella persona di Yahweh. La conclusione alla quale siamo arrivati è che gli israeliti, prima della diaspora, credevano in una divinità espressa al plurale e che l'espressione di questa pluralità fosse appunto Yahweh. In seguito abbiamo considerato che Yahweh ha caratteristiche antropomorfiche e antropopatiche, che egli ha un corpo e che si è rivelato nell'angelo dell'Eterno, quale immagine sostanziale di Elohim, cioè la persona nella pluralità dell'Elohim, alla quale l'essere umano può accedere. Per questo motivo abbiamo concluso le nostre riflessioni in merito all'Antico Testamento, dicendo che l'Antico Testamento è l'annuncio o l'Evangelo dell'opera e del messaggio di Yahweh. Nel leggere i Vangeli abbiamo inoltre notato che Giovanni il Battista identifica in Gesù Yahweh e che lo stesso Gesù afferma di essere la divinità dell'Antico Testamento in molti modi, fra i quali l'espressione Io sono. Dunque, Gesù ha asserito più volte di essere Yahweh, il Dio che si è rivelato ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe, a Mosè e ai profeti. Lo ha affermato nell'espressione Io sono, nel dichiarare che Mosè ha scritto di lui e che Abramo ed Isaia lo avessero visto. Ma se non avessimo anche un'ulteriore, una valida testimonianza, potremmo dire di aver compreso erroneamente le parole di Gesù. La testimonianza autorevole della presenza di Cristo nell'Antico Testamento è data dagli Apostoli, da coloro che in seguito hanno annunciato la sua presenza corporea nell'Antico Testamento. Purtroppo dobbiamo riconoscere che alcuni credenti leggono pochissimo l'Antico Testamento, anzi, certi non lo leggono neppure, perché lo ritengono non cristiano. Eppure, una persona che si prefiggesse di leggere la Bibbia nell'arco di un anno sarebbe costretta a leggere l'Antico Testamento per 8 mesi e il Nuovo Testamento per 4. Ma la testimonianza degli Apostoli sulla necessità di studiare l'Antico Testamento è molto più valida della nostra opinione. Ascoltiamo la lettura nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo 3, dove Paolo mette in risalto il valore dell'Antico Testamento. Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate, e che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni opera buona. Nella sua ultima lettera, l'apostolo Paolo ricorda a Timoteo che la sua fede era riposta nelle scritture. L'affermazione «tutta la scrittura», alla quale si riferiva Paolo, era costituita dai 39 libri degli ebrei, cioè dall'Antico Testamento. Ai primi cristiani esso era sufficiente affinché tutti coloro che volessero fare la volontà di Dio divenissero istruiti, corretti e infine trasformati in uomini di Dio completi per compiere ogni opera buona. Cari ascoltatori, hanno le sacre scritture dell'Antico Testamento lo stesso valore anche per noi? Siamo noi in grado di attingere dalle scritture dell'Antico Testamento quelle verità basilari per la nostra fede? Nella sua prima lettera scritta agli abitanti di Corinto, l'apostolo Paolo scrive al capitolo 10 ulteriori ragioni per cui è importante conoscere e studiare l'Antico Testamento. Ascoltiamo. Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare. Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Or quella roccia era Cristo. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro, infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi fecero, e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro. Paolo ha narrato alcuni avvenimenti del popolo di Israele, descritti nell'Antico Testamento, per ricordarci che esso è stato scritto per noi, affinché ci applicassimo la santità, per non subire la stessa sorte che Yahweh riservò al popolo di Israele. Trascurare la lettura dell'Antico Testamento significa, quindi, privarci di grandi benedizioni e limitare la nostra comprensione del volere e dell'opera di Yahweh. In sintesi, possiamo riassumere alcune ragioni della necessità di leggere e meditare l'Antico Testamento. Innanzitutto, perché è anch'esso parola di Dio, e questo lo dissero Gesù e gli apostoli. Poi, per una ragione cronologica, gli avvenimenti dell'Antico Testamento precedono quelli del Nuovo. E poi anche per una ragione dottrinale, le dottrine del Nuovo Testamento sono tutte basate sul Vecchio. Inoltre, è importante studiare l'Antico Testamento perché testimonia la messianicità di Gesù. Questo aspetto non deve essere sottovalutato, perché chiunque potrebbe dire di essere il Cristo. È importante studiare l'Antico Testamento perché serve per capire il Nuovo. In effetti, leggere il Nuovo senza conoscere il Vecchio è come vedere un film iniziando dal secondo tempo. È ancora importante studiare l'Antico Testamento perché gli insegnamenti spirituali sono eterni. A parte la legge cultuale e civile, le altre leggi spirituali contenute nell'Antico Testamento sono ancora valide. Infine, è importante studiare l'Antico Testamento perché ci sono profezie ancora inadempiute. Com'è possibile aspettarsi delle profezie in merito a Cristo, ad Israele o al mondo, se non si conoscono? Lo studio dell'Antico Testamento è dunque indispensabile per chi ama Dio e desidera compiere la sua volontà. Proprio per questo, quando i primi cristiani testimoniavano di Cristo, spesso si rifacevano brevemente ad episodi descritti nell'Antico Testamento. Paolo ricorda il velo sul volto di Mosè nella seconda lettera ai Corinzi. L'autore della lettera agli Ebrei cita Melchisedec almeno una decina di volte. Giuda richiama alla mente dei suoi lettori la triste fine delle città di Sodoma e Gomorra. Abbiamo detto che nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 10, Paolo si sofferma maggiormente a descrivere alcuni episodi del popolo di Israele che troviamo narrati nella Torah, cioè nel Pentateuco. I primi cristiani, evidentemente, conoscevano questi episodi e Paolo prende l'occasione per invitare i credenti a non provocare il Cristo, come fecero gli ebrei durante il periodo dei 40 anni nel deserto. Forse a noi suona strano un tale avvertimento, ma evidentemente i primi cristiani avevano una chiarezza su Gesù Cristo che per noi è scemata nel corso dei secoli. Vogliamo riascoltare la lettura di questi primi 9 versetti. Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare. Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Ora, quella roccia era Cristo. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro. Infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi fecero, e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto. Il popolo si sedette per mangiare, per bere, e poi si alzò per divertirsi. E non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno 23.000. E non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. Paolo ha richiamato alcuni episodi riguardanti il popolo di Israele, descritti nei libri dell'Esodo e dei Numeri. Spesso la lettura che si fa di questo testo è spirituale, poiché Paolo parla di una roccia spirituale, che è Cristo, di un cibo spirituale e di una bevanda spirituale. Facendo una lettura solo metaforica di questo brano, l'interpretazione diviene interamente simbolica, tipologica. E poiché per la nostra cultura lo spirituale si contrappone al materiale, prendiamo dalla lettura di questo brano solo ciò che si traduce in un insegnamento morale riguardante il nostro comportamento. Ma Paolo stava insegnando qualcosa di molto più importante. Poiché gli episodi citati da Paolo sono realmente avvenuti, è difficile pensare che Paolo volesse trasmettere delle verità morali senza avere un presupposto storico. Anzi, le verità morali non possono essere comprese rettamente se prima non si sono compresi gli episodi accaduti nella realtà. Paolo ricorda ai Corinzi che la roccia spirituale era Cristo. Che cosa intendeva affermare l'Apostolo? La parola spirituale in questa affermazione non può essere presa in senso simbolico, perché anche il cibo e l'acqua vengono definiti spirituali. Eppure, gli israeliti per 40 anni si nutrirono di un cibo materiale e bevvero dell'acqua vera e propria. Anche il corpo spirituale, descritto nella prima lettera ai Corinzi, che avranno i credenti, non è qualcosa di evanescente, come non è incorporeo o evanescente l'uomo spirituale. Inoltre, ciò che è definito spirituale non può essere automaticamente considerato come figura. I due termini differiscono anche in greco. L'aggettivo pneumatikos indica espressamente ciò che è proprio dello spirito, ciò che è condotto dallo spirito, mentre il sostantivo typos significa forma, figura, immagine. Cristo dunque era un pneumatikos, cioè era una realtà o una manifestazione della sua attività condotta dallo Spirito che accompagnava il popolo di Israele. In definitiva, la roccia spirituale che li accompagnava era dunque la presenza corporea di Cristo. Questo è quanto Paolo stava dicendo. Ma vi sono altre cose da aggiungere e che prenderemo in considerazione nella prossima trasmissione. Ciao a tutti e a risentirci a presto. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che il piacevole sguardo del nostro Signore Gesù Cristo sia su di voi. In questa trasmissione concludiamo le nostre riflessioni in merito alla testimonianza che gli Apostoli danno della divinità di Gesù Cristo, quale divinità dell'Antico Testamento. Abbiamo detto nelle trasmissioni precedenti che il nome proprio della divinità di Israele, cioè il tetragramma, letto da noi come Yahweh, e che si trova più di 6.000 volte, non è un semplice titolo, ma è il nome proprio di una delle persone della Trinità, e cioè di Gesù Cristo. Non a caso alcuni traduttori fanno notare che il nome Gesù, che deriva dal termine greco Iesus, letteralmente significa Yahweh, o Dio salva. In un certo senso siamo coscienti di non dire nulla di eclatante, e di questo ne siamo contenti, se non fosse per il fatto che per molti il nome proprio della divinità di Israele, cioè Yahweh, è un titolo che è attribuibile a tutte e tre le persone della Trinità. Questa interpretazione del nome di Dio limita la comprensione della Scrittura, perché non è mai detto nel Nuovo Testamento che il nome proprio di Dio fosse la persona dello Spirito Santo o quella del Padre. Anzi, in tutto il Nuovo Testamento troviamo scritto che i patriarchi e i profeti ebbero a che fare con Cristo. Proprio per questa presa di coscienza abbiamo letto nella trasmissione precedente un brano della lettera dell'Apostolo Paolo, nel quale fa riferimento in modo specifico di Gesù Cristo, ad episodi appunto narrati nel Pentateuco. Perché possiate seguire meglio le nostre riflessioni, ripropongo la lettura del brano che si trova nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 10. Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale, e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Or quella roccia era Cristo. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro, infatti furono abbattuti nel deserto. Ora queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi fecero, e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto. Il popolo si sedette per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi. E non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno 23.000. E non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. Abbiamo detto nella trasmissione precedente che Paolo ha richiamato alcuni episodi riguardanti il popolo di Israele, descritti nei libri dell'Esodo e dei Numeri, e che spesso la lettura che si fa di questo testo è spirituale, dal momento che Paolo parla di una roccia spirituale che è Cristo, di un cibo spirituale e di una bevanda spirituale. E poiché per la nostra cultura lo spirituale si contrappone al materiale, prendiamo dalla lettura di questo brano solo ciò che si traduce in un insegnamento morale riguardante appunto il nostro comportamento. Ma Paolo stava insegnando qualcosa di molto più importante. Poiché gli episodi citati da Paolo sono realmente avvenuti, È difficile pensare che l'Apostolo volesse trasmettere solo delle verità morali senza avere un presupposto storico. L'Apostolo ricorda ai Corinzi che la roccia spirituale era Cristo. Che cosa intendeva affermare Paolo con una simile espressione? La parola spirituale in questa affermazione non può essere presa in senso simbolico, perché anche il cibo e l'acqua vengono definiti spirituali. Eppure, gli israeliti per 40 anni si nutrirono di un cibo spirituale e bevvero dell'acqua vera e propria. Una cosa è certa: ciò che è definito spirituale non può essere automaticamente considerato come figura. I due termini differiscono anche in greco. L'aggettivo pneumatikos indica espressamente ciò che è proprio dello spirito, ciò che è condotto dallo spirito, mentre il sostantivo typos significa forma, figura o immagine. Cristo era pneumatikos, cioè era una realtà o una manifestazione della sua attività condotta dallo spirito che accompagnava il popolo di Israele. In definitiva, la roccia spirituale che li accompagnava era dunque la presenza di Cristo. Poiché Paolo usa allora l'espressione roccia spirituale, una roccia non è forse, come definisce il vocabolario, un aggregato minerale che costituisse la parte più dura e coerente della crosta terrestre? Per forza di cose, riferita a Cristo, non va presa tale espressione in senso simbolico? L'Apostolo stava scrivendo a credenti che conoscevano le scritture, la Torah. I Corinzi sapevano che nel capitolo 32 del libro del Deuteronomio Yahweh Dio veniva chiamato roccia. La parola roccia in quell'occasione non era tanto un nome comune di cosa, ma un sostantivo che costituiva un nome di Yahweh stesso. Infatti, anche la 70 traduce roccia con Dio o con Signore. Non soltanto nei versetti citati, ma in tutto il cantico, al posto di roccia, la traduzione dei 70 traducono i nomi del Dio di Israele. Quindi, affermando che la roccia spirituale era Cristo, Paolo voleva intendere che il popolo di Israele nel deserto vi fosse Cristo stesso, condotto dallo Spirito di Dio. Non siamo i soli a concludere che Cristo era presente fisicamente nel deserto. Così commenta il passo di Prima Corinzi, capitolo 10, Enrico Bosio, uno studioso delle scritture. Gli israeliti sono stati provveduti d'acqua e che dovettero questo alle cure costanti di colui che Mosè stesso chiamò la roccia della salvezza di Israele e che Paolo nomina addirittura Cristo. Difatti, secondo lui, la persona divina che accompagnava il popolo nel deserto, l'angelo della faccia, l'angelo di Dio, del patto, l'Eterno, l'autore delle teofonie, non era altri che il Figlio di Dio, il quale, prima di incarnarsi, presiedeva alla economia della salvazione. Egli era la vera roccia spirituale, soprannaturale, che seguitava Israele e provvedeva ai suoi bisogni. Fa coro un altro studioso, Leon Morris, citando un altro studioso ancora, e dice: l'uso di era indica una preesistenza reale. Dunque, per i primi cristiani, la presenza di Cristo nell'Antico Testamento era una cosa ovvia. È sorprendente leggere nel libro degli Atti, al capitolo 18, come Apollo, un giudeo che conosceva solo l'Antico Testamento, potesse predicare e insegnare con esattezza le cose riguardanti Gesù. È vero che in altre Bibbie, come la Diodati, abbiamo la traduzione che Apollo parlava e insegnava diligentemente le cose del Signore, ma il testo greco, la Nuova Riveduta, la Nardoni, la Bibbia Martini, traducono che Apollo insegnava le cose riguardanti Gesù. Perciò, se per noi la presenza di Cristo nell'Antico Testamento non è evidente, si deve certamente ad una mancanza di conoscenza derivante da un'errata trasmissione della fede o da una nostra insufficiente percezione di essa. E non solo. Anche i traduttori della Bibbia hanno una parte di colpa, perché non sempre hanno tradotto correttamente il testo del greco. La traduzione imperfetta del versetto 9 nel capitolo 10 di Prima Corinzi offusca la presenza di Cristo nella Torah. Mentre la Nuova Riveduta traduce così, il testo di Prima Corinzi capitolo 10, «Non tentiamo il Signore come alcuni loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti», la Nuova Diodati invece, fedele al greco, rende «E non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo di serpenti». Tradurre Signore al posto di Cristo non trasmette esattamente il pensiero di Paolo. Scrivere Signore induce il lettore ad avere un'idea vaga di Dio, mentre tradurre Cristo fa comprendere che gli ebrei nel deserto tentarono proprio la persona di Cristo e non tanto Dio, inteso nella sua pluralità come Theos oppure Elohim. Evidentemente, il traduttore non ha afferrato l'importanza di questa precisazione e ciò ci induce a pensare che molti non abbiano percepito che Yahweh, la divinità degli ebrei e dei cristiani, è Cristo. Quello che abbiamo preso in considerazione nella lettera ai Corinzi vale anche per quanto concerne un'affermazione che troviamo nella lettera di Giuda. Ascoltiamo la lettura dalla Bibbia Diodati. Or voglio ricordare a voi che già conoscevate tutto questo, che il Signore, dopo aver salvato il suo popolo dal paese di Egitto, in seguito fece perire quelli che non credettero. Cari ascoltatori, i testi più antichi del IV e V secolo, al posto di Signore, portavano scritto Gesù, Cristo, Dio Cristo oppure Dio. I codici Vaticano e Alessandrino e molte versioni antiche invece rendono Gesù salvò il popolo dall'Egitto. Queste versioni mettono in evidenza che fu Cristo a salvare il popolo di Israele dall'Egitto e non un vago Signore. Ciò che troviamo scritto nel libro del Deuteronomio, il capitolo 4, è molto significativo. Mentre nella Nuova Diodati leggiamo «Ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua presenza», nella Nuova Riveduta troviamo scritto «Egli in persona ti ha fatto uscire dall'Egitto». Una lettura come quella della Nuova Riveduta produce nella mente di chi legge una chiarezza inconfutabile della reale presenza di Cristo al tempo dell'Esodo, non lasciando spazio alcuno ad ulteriori dubbi. Questa conoscenza della presenza di Gesù nell'Antico Testamento faceva sì che i primi ebrei cristiani scrivessero in modo tale che a noi potrebbe risultare strano. Prendiamo come esempio ciò che troviamo scritto nella lettera agli ebrei al capitolo 11. Per fede, Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. La domanda più ovvia è: come ha fatto Mosè a stimare il vituperio di Cristo maggiore delle ricchezze di Egitto se non lo conosceva? È anche questa un'espressione che deve essere presa in senso simbolico o l'autore della lettera si rifaceva ad episodi veramente avvenuti? Alla luce di quanto abbiamo considerato, Mosè scelse veramente di essere disprezzato per amore di Cristo che vedeva, anziché godere i piaceri terreni e fugaci. Cari ascoltatori, l'unica conclusione possibile a queste riflessioni è che l'Antico Testamento è dunque il Vangelo di Yahweh. Questa era la convinzione dei primi cristiani e per questo citavano di frequente le scritture riferendosi a Cristo. L'autore della lettera agli ebrei così scrive: «Perciò, entrando nel mondo, egli dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto: Ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, o Dio, la tua volontà». La venuta di Cristo non è stata occasionale. Essa era già stata preannunciata dalle scritture. Era scritto nel rotolo del libro. Proprio per questo Paolo, annunciando il Vangelo, afferma che il Cristo è morto per i nostri peccati, è stato sepolto ed è risorto secondo le scritture. Se la vita di Cristo non fosse stata conforme alle scritture, egli sarebbe stato un falso messia. Il messaggio dei primi cristiani, dunque, si riassumeva nella rivelazione della persona di Gesù. Alla luce di queste riflessioni, quando parliamo di teofania nell'Antico Testamento, usiamo una definizione impropria. L'espressione più giusta per definire la presenza della divinità di Israele nell'Antico Testamento è cristofania, se non Yahvefania. È vero che Gesù è Dio, ma il termine teofania non rende giustizia alla presenza di Cristo nell'Antico Testamento. Ciao a tutti e a risentirci presto per annunziare che Gesù è il Signore.